Tempo di Sport di Gigi Garanzini. Buon pomeriggio. Non era mai stata chiusa la lotta al vertice della classifica, non poteva esserlo visto che siamo tuttora nel girone d'andata che si concluderà solo il prossimo fine settimana, ma insomma a maggior ragione è riaperta questa lotta dopo che in due partite di uguale coefficiente di difficoltà, e cioè in casa contro Cagliari e Siena, l'Inter ha soltanto pareggiato rischiando seriamente di perdere, e la Juventus invece, pur meritandolo fino a un certo punto, è comunque riuscita a vincere. 4 punti di distacco tra le due prime in classifica, che oggi dice Inter 43, Juventus 39, Milan 34, Napoli 33, se vogliamo arrivare a comprendere anche la quarta classificata. Un anno fa questa classifica invece vedeva l'Inter con 3 punti in più a 46, a 39 punti c'era la Roma, staccata dunque di 7 lunghezze, la Juventus era a 10 punti a 36, il Milan addirittura a 25, perso nelle nebbie. Quindi c'è molto più equilibrio oggi rispetto ad una stagione fa, ma senza dimenticare che quel vantaggio apparentemente abissale, appunto, dell'inizio del 2008, poi in realtà portò ad un finale in cui l'Inter il suo campionato lo vinse a mezz'ora dalla fine dell'ultima partita. Poi ci sono tutte le considerazioni legate alla sfida di ieri sera all'Olimpico tra la Roma e il Milan. Ci saranno come sempre i vostri interventi in diretta all'800240024. La prima notizia che vedo appena battute le agenzie è che Totti ha ricominciato a correre e che quindi dovrebbe essere è dato in largo anticipo sulla tabella di marcia del recupero, e si è visto anche ieri sera, nonostante la grande partita di Vucinic, quanto conti Totti per la Roma in chiave di campionato, ma a questo punto soprattutto in chiave di Coppa. Cominciamo ad ascoltare il riassunto vocale della giornata, e in particolare direi della serata, con il commento di Ancelotti. La parte sì è il secondo tempo fatto, quindi a velocità, a qualità, è quello che siamo riusciti a fare nel secondo tempo, anche e soprattutto in fase d'attacco. La parte nella fase, diciamo, bicchiere mezzo vuoto è il primo tempo, insomma, che è stato giocato con troppa lentezza, troppo poco movimento, tenendo molto la palla sui piedi, e questo era sicuramente negativo per noi. Beckham ha dimostrato in questi pochi giorni che è con noi di essere un giocatore tatticamente molto intelligente, con molto equilibrio, e quindi ho optato per questa scelta sapendo che, insomma, lui aveva fatto molto bene, stava anche bene fisicamente, si è allenato con molta serietà. Un piccolo premio, un giocatore che è entrato molto bene nel nostro gruppo. Beh, di Borriello abbiamo bisogno in determinate partite, anche in determinate situazioni delle partite stesse. Adesso giochiamo in maniera diversa, ma credo anche che Pato sta diventando un attaccante di straordinaria qualità. Questo mi pare che sia un dato indiscutibile. Pato aveva debuttato giusto un anno fa nel nostro campionato, ha segnato in questi 12 mesi ha segnato 21 gol, non sono pochi per un attaccante di quell'età, e soprattutto è sembrato veramente nel passo lento e felpato del Milan di ieri sera che queste accelerazioni appartengono al repertorio di un giocatore davvero di alta categoria e destinato probabilmente ad una grande carriera. L'altra parte della barricata, Spalletti. Abbiamo fatto un po' tardi ad accorciare su quelli a metà campo su una palla profonda, e hanno trovato poi passaggio e fraseggio sulla via di mezzo, e poi ci hanno attaccato la linea difensiva. Forse Doni l'ha interpretata che gli si fosse allungata un po' troppo, e quando è partito pensava ad arrivarci poi insieme, pensava di arrivarci a contrastargli la palla, ecco, invece è andato un attimo. Su questo tocco qui gliela... Secondo me l'ha valutata un pochettino lunga. Secondo me è stata una bellissima partita dove la Roma ha fatto quello che doveva fare, poteva anche vincere da ultimo, come poteva vincere il Milan, perché ci sono stati continui ribaltamenti di fronte. Penso che il pubblico abbia gradito, e poi bisogna essere contenti di quello che è stato sviluppato. Questa squadra poi, dopo quel periodo un pochettino difficile, ha cominciato a giocare a calcio come sa, e al di là di un risultato dove poi la squadra ha vinto oppure dove ha perso, però insomma, fa vedere di essere un'ottima squadra e poi ha recuperato dei calciatori importanti che ci possono servire fino da mercoledì, perché poi ci sono tutte queste partite ravvicinate. A proposito di partite ravvicinate, la Roma recupera giusto mercoledì, dopodomani, la partita di campionato con la Sampdoria, sospesa al sesto minuto per impraticabilità di campo lo scorso 29 ottobre. Sarà l'arbitro Tagliavento di Terni a dirigere la partita, così come altri due impegni di Coppa Italia riguardano invece Inter e Juventus. Inter Genoa si gioca domani a San Siro alle 21, arbitro Gava di Conegliano. Juventus Catania l'indomani, cioè mercoledì sera alle 20.45, con Banti di Livorno alla direzione di gara. Il commento di Ranieri alla partita, dicevo, non brillante, certamente, per sua stessa missione, come sentirete, della Juventus con il Siena. Siena non meritava la sconfitta, ha giocato molto bene. Noi abbiamo la fortuna di avere il nostro capitano che anche nelle giornate meno belle della squadra, lui riesce a tirar fuori qualcosa di bellissimo, per cui godiamoci questi tre punti. Era importante riniziare con il passo giusto con il quale avevamo lasciato il 2008, però dobbiamo lavorare molto perché non ci siamo, non siamo quelli che hanno lasciato il 2008. E questo, diciamo, l'autocritica di Ranieri a proposito di un non brillante rientro in campo della Juventus. D'altra parte, insomma, lo scorso anno forse la Juventus aveva fatto qualcosina di più dal punto di vista estetico al rientro, appunto, dopo le vacanze, ma aveva firmato due pareggi consecutivi che poi erano stati quelli del che ha scavato, insomma, il distacco definitivo, facendogli perdere contatto dall'Inter. Sentiamo invece, a proposito di Inter, che cosa dice ancora lo stesso Ranieri. L'ho detto ai ragazzi, dico: guardate che non è che dobbiamo vedere quello che fa l'Inter, dobbiamo vedere quello che facciamo noi. E ho detto proprio, dico, così come il Cagliari ha fatto una grossa prestazione a San Siro contro l'Inter, così sarà contro il Siena, perché il Siena è allenato da un ottimo allenatore e che fa giocare molto bene le sue squadre, per cui sapevo che sarebbe stata una giornata molto molto difficile. Sì, indubbiamente meglio ancora ha fatto il Cagliari da un punto di vista qualitativo, ma anche della convinzione e dal fatto di aver cercato sempre la porta avversaria, nonostante fosse la porta dell'Inter, così come Siena doveva cercare quella della Juventus, con una convinzione maggiore. Splendida veramente la serata di Cagliaritani a San Siro. Era persino difficile sabato sera scegliere il migliore in campo tra i Cagliaritani. Io ho un debole per Conti, ma mi pare che Cossu, per esempio, e anche Biondini abbiano giocato una partita strepitosa, tanto che alla fine, certo, i demeriti dell'Inter c'erano, ma c'erano anche i grandi meriti del Cagliari, e questo mi sembra un segnale importante per il campionato. Se pensate che un anno fa a quest'ora il Cagliari aveva esattamente 10 punti, gli stessi che oggi ha il Chievo, ed era praticamente retrocesso, e invece si è salvato anche grazie all'arrivo di Cossu, che arrivò per l'appunto nel mercato di riparazione di un anno fa, ma insomma si è salvato con un giro di ritorno strepitoso guidato poi da Ballardini, e quest'anno sta facendo forse ancora meglio di quanto non fosse riuscito a combinare la scorsa stagione, sia pure in condizioni più difficili, perché si trattava di rimontare la classifica. Scendiamo appunto in questa classifica, non di molto poi, perché dobbiamo arrivare al Napoli e sentire Reia e la sua proiezione in materia di Champions League. Attualmente siamo in questa posizione e questo ci gratifica sul piano così personale, da parte della società, da parte dei giocatori, però noi siamo a 7 punti dalla Coppa UEFA, è quello che conta, perché noi attualmente siamo in una buona posizione di classifica, però non lo so se continueremo di questo passo. È chiaro che tutto può succedere, però non penso che siamo attrezzati per affrontare un discorso di questo genere. C'è anche un pizzico di forse di scaramanzia, ma certo c'è del realismo nelle parole di Reia. Tra oggi e domani Moratti incontrerà Balotelli e i suoi fratelli agenti, leggo da da un'agenzia. Il presidente nerazzurro, a differenza di Mourinho, che era sembrato molto infastidito per le voci fatte circolare dall'entourage del giocatore, leggo su un'ansa appena uscita, appare invece molto tranquillo. Oggi e domani li vedrò e capirò anche io che cosa questo ragazzo vuol fare. Non penso proprio, in ogni caso, che Balotelli se ne andrà, e di conseguenza non penso che arriveranno rinforzi in attacco, perché da lui e da Adriano mi aspetto segnali positivi. Molto negativi invece i segnali che sono arrivati ieri da Firenze, non tanto per il Lecce, che invece ha vinto una partita insperata e che ha riguadagnato la quota salvezza con 3 punti di quelli che cambiano un fondo classifica, ma certamente per la Fiorentina era la possibilità di accorciare rispetto alla vetta, addirittura, anche se poi non sono quelli gli obiettivi di stagione. E invece è arrivata una sconfitta immeritata per come sono arrivati i gol, soprattutto il secondo del Lecce in fuorigioco, ma che ha però denunciato una squadra non ancora matura per certi traguardi. Sentiamo Prandelli. È successo che siamo stati troppo ingenui sui 2 gol, anche se forse il secondo era in fuorigioco. Di solito la squadra non ha questo atteggiamento così alto da fare il fuorigioco, e quindi abbiamo sicuramente sbagliato all'interpretazione della situazione. Siamo riusciti a recuperare la gara e da lì avremmo dovuto fare la gara come volevamo noi, invece ci siamo comunque innervositi e abbiamo comunque giocato un calcio troppo frenetico, troppo prevedibile. Qualche ragazzo ha accusato qualche problema, purtroppo, quindi abbiamo sicuramente avuto qualche difficoltà, però al di là di questo abbiamo creato anche nel secondo tempo tanto, però abbiamo trovato un Lecce molto ordinato, ci ha concesso soltanto tanti calci d'angolo e da lì la partita è diventata una partita molto difficile. Un ascoltatore, Mirko, domanda un parere sui 2 gol, sui fuorigioco dei 2 gol del Lecce a Firenze. Ma insomma, mi pare che sul primo si potesse discutere, magari c'era, magari non c'era. Il secondo, insomma, fuorigioco non dico netto, ma abbastanza chiaro, abbastanza facilmente individuabile. Ed è curioso che è curioso, ma nello stesso tempo allontanare i sospetti, no? Perché quando si parla della famosa celeberrima sudditanza, parola che Collina non vuol sentir pronunciare, la sudditanza, il concetto un po' estensivo di sudditanza, è anche quello, il concetto di arbitro magari casalingo, magari comunque tra Fiorentina sul suo campo e Lecce portati nel dubbio a interpretare in un certo modo. E invece ieri è curioso, direi, che un assistente abbia giudicato 2 volte consecutive a vantaggio, diciamo, della squadra più debole, cosa sinceramente anche strana nel secondo caso, perché già c'era il dubbio sul primo e il secondo è sembrato ancora più sorprendente come decisione negativa. Ho trovato personalmente invece perfetta la direzione di Pierpaoli a Inter Cagliari l'altra sera, e questo è un altro segnale rassicurante, perché quando a mezz'ora dalla fine una capolista, comunque si chiami, sul suo campo va sotto contro una piccola squadra, in genere o comunque in passato è successo spesso che il primo a farsi prendere al panico fosse l'arbitro. Non è certamente accaduto con Pierpaoli l'altra sera, che ha continuato a dirigere esattamente come aveva fatto fino a quel momento, e questo, ripeto, è un segnale rassicurante per il campionato. Un ascoltatore prima del primo intervallo arriva da Genova ed è Stefano. Buongiorno. Buongiorno, io niente, sono un tifoso del Genova, volevo dire, il Genova a mio parere sta sviluppando un calcio adesso migliore, sempre una cosa molto utopistica, dire, della Serie A. Però ieri sera, io ho visto il Genoa sabato, ho visto il Milan, proprio ti rendi conto che ormai per fare un tipo di calcio moderno, come gioca una squadra come il Genoa, con pressing a tutto campo, dove tutti giocano in 11, gli 11 giocatori si danno una mano. Vedendo il Milan ieri sera, che ha dei grandi giocatori, vedevo tutto sommato un gioco moderno, quello del Genoa, e quello del Milan un gioco che poi non è divertente, perché i grandi giocatori sì, fanno i grandi colpi tipo Pato, Ronaldinho, però non hanno la mentalità di applicare gli schemi in maniera tale da poter avere un tipo di gioco, cioè nel senso che per esempio devono rientrare da una mano al centrocampo. Sono 2 tipi di calcio completamente diversi. Ecco, sono 2 tipi di calcio completamente diversi, e questo credo che non sia impossibile da cogliere come differenza. Dopodiché a calcio si può giocare bene in tanti modi, così come si può giocare male in tanti modi. Il Milan del primo tempo di ieri certamente era un'interpretazione moviolistica del calcio. Il Milan del secondo tempo, grazie all'accelerazione di Pato, e non solo, però era tutto un altro discorso. E quindi vede che insomma è relativo. Se una squadra riesce a trovare, non è necessario nel calcio, ripeto una vecchia immortale battuta di Lidl, i giocatori certo che devono correre, ma l'importante è che sudi il pallone, raccomandava Lidl. Beh, il Milan mi pare abbia giocatori che il pallone sono in grado di farlo correre e di farlo sudare con raziocinio. Beh, questa è carina, suggestiva, penso anche un po' romanzata. È un'agenzia appena arrivata da Londra che racconta che è tutta colpa di Maradona se il Chelsea è stato svegliato la notte precedente la partita con il Manchester United, cioè la notte tra sabato e domenica. Dunque, sembra che Maradona, che era ospite dello stesso albergo in cui alloggiava il Chelsea alla vigilia appunto della partita, fumando un sigaro notturno abbia fatto scattare l'allarme in tutto l'edificio e quindi costringendo i giocatori del Chelsea non solo a una levataccia in attesa in piena notte, ma anche a 40 minuti nel gelo, mi auguro non soltanto in pigiama, con qualcosa in più, ma insomma fuori dall'edificio, appunto in attesa che le misure di sicurezza, che insomma che le pratiche di sicurezza venissero espletate. Questa appunto curiosa. Davide ha chiamato da Roma, buongiorno. Sì, buongiorno a voi, grazie per avermi richiamato. Una domanda per quanto riguarda la Lazio. Diciamo, dopo la vittoria di ieri, sinceramente, anche vista la posizione degli avversari, non è che vedo questa Lazio poi in netta, diciamo, ripresa, anche perché spero da una parte che la regina si possa salvare, perché ha ottimi giocatori per farlo. Volevo dire, cioè, arrivati tre punti, ancora mancano, diciamo, su questa squadra un difensore. Che dalla Lazio ha preso 24 gol e penso che siano tanti. Dopo mi manca anche un centrocampista e spero che sia altrettanto giovane, ed una quarta punta. Cioè, l'unica cosa che posso dire è che non è stato facile trovare questi tre punti, mentre gli altri, leggendo anche in giornali un po' di cronaca di parte, per tutti è stato facilitato, diciamo. Sì. Lei dice dunque 18 partite, 30 punti in classifica la Lazio, a me sembrano tanti, o comunque in ogni caso non mi sembrano pochi. Non solo, ma un anno fa a quest'ora erano 18. È vero che era una situazione abnorme allora in senso negativo, però insomma riguadagnare 12 punti in un solo girone d'andata non è così poco. Io sarei un po' meno critico nei confronti della Lazio. Tocca a Fabrizio, chiamato da Ancona, buongiorno. Buongiorno, dica. Io sono un tifoso interista, sì. Leggendo i giornali e guardando la televisione mi accorgo che gli addetti ai lavori sostengono che l'Inter è favorita perché ha una rosa straordinaria e comunque superiore alla Juventus, però esaminando i giocatori così a me non sembra, perché l'Inter ha 3 o 4 campioni come li ha la Juventus. Poi ha una serie di dinosauri, voglio definire così, come Adriano, Crespo, Cruz, Jimenez, Figo, Materazzo, questi sono tutti nomi, per carità, però quando entrano in campo il rendimento è molto limitato e certamente non superiore a quello dei giovani della Juventus, quindi parlare di superiorità dell'Inter, di grande rosa, secondo me è molto, molto enfatico, non è nei fatti poi. Beh, è un'opinione abbastanza originale la sua, mi pare, visto che a pensarla in maniera diversa siamo in tanti e tra questi tanti ci sono, credo, tutti gli osservatori calcistici nazionali e credo anche internazionali. Poi, se parliamo invece di caratteristiche di squadra, se parliamo di magari di convinzione, se parliamo di rabbia, di agonismo, allora troviamo delle differenze cospicue. Ma se parliamo di qualità individuali rispetto all'intera rosa, beh, insomma, mi pare che poi tutte le opinioni sono rispettabili e soprattutto il calcio non è una scienza esatta, ma mi sembra che siamo abbastanza lontani dalla verità. Diverso è domandarsi se con la legna che ha Ranieri, quello che ricordo sempre, che secondo Tutto Sport andava non calciato ma radiato e levata la tessera non più tardi di 3 mesi fa. Ranieri non riesca a ottenere dai suoi più di quanto in realtà non riesca ad ottenere Mourinho dall'Inter. E questo mi sembra che cominci a essere poco alla volta una domanda che ci può stare, insomma, che ci si può anche porre. Francesco ha chiamato da Treviso, buongiorno. Buongiorno. Dica. Questa è una domanda, avete sempre giornalisti sportivi in redazione. Volevo sapere, una volta, molti anni fa ricordo, i programmi sportivi partivano con i 10 servizi della Serie A, 3 minuti ciascuno, e tutti quanti nell'arco di mezz'ora tutta Italia poteva vedere la propria squadra al servizio della propria partita. Adesso tutti i programmi sportivi cominciano alle 10:30, alle 11:40 si sta ancora parlando del Milan o dell'Inter, della Juve. È possibile che non si possa fare una scaletta, nessun programma pensi a dare almeno in prima battuta egual spazio a tutte le squadre e poi approfondire? Chiaramente il Milan, l'Inter hanno diritto a più spazio, il mercato, gli infortuni, eccetera eccetera. Francesco, è come dice lei, oggettivamente una spiegazione mi pare che ci sia, una spiegazione che non vuol dire che abbia ragione o abbiano torto. La spiegazione è che l'epoca a cui lei si riferisce non contemplava ancora la pay TV, non contemplava un diluvio di immagini che chi vuole e chi si può permettere, ma ormai sono davvero tanti, oggi hanno visto, hanno rivisto e arrivano alle, visto che lei sta parlando di programmi serali, arrivano alle 10:30 di sera e queste immagini gli escono dagli occhi ormai. Tant'è vero che i programmi di quella fascia oraria mi pare debuttino con le immagini del posticipo, quelle sì, e le valorizzino al massimo proprio perché sono inedite, e le altre tendano un pochino a diluirle nel corso della puntata, perché in linea di massima, cioè perché inedite non sono innanzitutto, e possono essere già più o meno stucchevoli a seconda di quanto uno le ha viste. Io credo che poi sia un discorso di qualità, magari sul calcio parlato, ma che le immagini oggi debbano cedere il passo ad altro, se sono immagini datate già di così tante ore, credo che sia una scelta intanto irreversibile, io credo, e poi credo che sia una scelta che una ragione ce l'ha comunque. Se parliamo di servizio pubblico, da quest'anno la RAI ha ripristinato 90esimo minuto alle 18, alle 18, sì, esatto, e quindi quello che un tempo erano le prime grandi immagini, i servizi generali, globali, dati nel programma di seconda serata delle 22 o delle 22:30, adesso è rianticipato addirittura alle 18. Dunque, sinceramente, che la Domenica Sportiva debba dare alla sua trasmissione lo stesso taglio che dà 90esimo alle 18, ripeto, senza entrare nella qualità, sarebbe profondamente sbagliato, a parer mio. Giovanni Pescara, buongiorno. Buongiorno. Dica. Salve. Niente, volevo chiedere una cosa. Visto insomma la ripartenza del campionato, io sono un tifoso della Fiorentina, vista ieri la partita, la Fiorentina sicuramente non ha giocato bene, però ci sono stati quei due episodi, praticamente i due gol del Lecce, che portano a galla, secondo me, non un problema, ma quella che è la realtà. Siccome la Fiorentina, vedendo i bilanci, è la prima delle piccole, non vorrei che dando troppo fastidio viene sempre un po' penalizzata. Non fa il salto di qualità, anche perché non è stata mai aiutata, tra virgolette. Anzi, secondo me è stata anche in quest'anno danneggiata dagli arbitri in alcune partite in modo clamoroso. Vedi Cagliari, Inter in casa, ieri con Lecce, Siena rigore su Donadel e tanti piccoli episodi. Dopo Palermo questo, col gol, famoso gol di mano. Grazie. Grazie a lei, Giovanni, anche perché ha colmato una lacuna subito questo è il primo lunedì in diretta del 2012, il primo lunedì in diretta del 2009, e abbiamo sin da subito la prima denuncia di congiura ai danni in una società. È la Fiorentina che non viene lasciata libera di esprimersi dalla bieca classe arbitrale. Da Udine ha chiamato Claudio, buongiorno. Sì, buongiorno. Dica. Niente, volevo parlare di Mourinho, che mi ha dato, sì, siccome sono tifoso interista, la cosa che mi ha dato più fastidio è lamentarsi delle mancanze di Maicon e dopo dell'altro centrocampista lì. Stankovic. Sì, Stankovic. Mm-hmm. Se io dico una squadra come l'Inter, quando incontra squadre come Siena, Cagliari, così, la prima mezz'ora dovrebbe essere, cioè queste qua non dovrebbero superare la metà campo, se non altro per intimorire l'avversario che magari ha dei giovani che non hanno mai giocato a San Siro. Poi giochi 90 minuti al massimo delle tue possibilità, anche facendo chiaramente dei cambi, non giocando sempre con la stessa squadra, perché come gioca Mourinho mi pare giochi probabilmente sempre con 13-14 giocatori, e si pretende di io pretendo che la squadra giochi al massimo, dal massimo punto di vista fisico parlo. È chiaro che poi se giochi un quarto d'ora non puoi pretendere di sistemare sempre le partite, che possono avere degli inconvenienti come poi è successo, no? E questo già sta succedendo già da qualche settimana. La mia paura è che, sì, non so, non vedo un allenatore strapagato che valga quello che è pagato, insomma, almeno la mia opinione è questa. Claudio, credo che non sia l'unico a pensare in questa maniera, in qualche caso non da oggi, certamente. Credo che le perplessità principali, almeno per quello che mi riguarda, attualmente siano legate alla scelta del modulo. Insomma, io credo che continuare a insistere con queste ali che sinceramente non volano e non fanno volare la squadra, anzi la frenano, sia un eccellente motivo di ottimismo per i tifosi della Juventus, dal mio punto di vista, e magari anche del Milan e di chi ancora può sperare di inserirsi in questa lotta. Si diceva della Fiorentina e di una giornata disgraziata, certamente, perché poi è arrivato l'infortunio a Mutu, assolutamente casuale, ma certamente doloroso per il giocatore, e anche perché appunto sa di ricaduta, ma poi foriero di conseguenze, perché questo è un periodo in cui si giocherà abbastanza tanto il campionato. Il 28 gennaio è in programma l'ultimo turno infrasettimanale, l'ultimo mercoledì di campionato, ed è molto difficile, anzi da escludere, che nemmeno per allora Mutu possa recuperare. Sentiamo Prandelli a proposito di questo infortunio. Cerchiamo di capire le condizioni di Adrian, poi il mercato è talmente lungo e imprevedibile che potrebbe anche magari avere dei risvolti diversi. In questo momento chiaro preoccupa, perché un giocatore importante come Adrian per noi è fondamentale, e aspettiamo gli accertamenti domani. Leonardo ha chiamato dalla provincia di Trapani, buongiorno. Sì, buongiorno. Dica. Io volevo parlare un attimo della Juventus. Sì. Intanto perché mi sembra che venga un po' snobbata la presenza, non snobbata ma comunque tenuta in considerazione minore la presenza di Sissoko all'interno del centrocampo della Juve. Ieri quando è uscito la Juventus ha sofferto parecchio, perché recupera molti palloni, ha fatto un lavoro un po' oscuro. E poi volevo dire, visto la campagna acquisti, diciamo così, che la Juventus farà Buffon, Trezeguet, Camoranesi e via dicendo, quali sono le chance aggiuntive? Perché sei arrivata a questo punto con questa rosa, avendo il rientro di tutti questi fuori classe, secondo lei in campionato può veramente dare fastidio o addirittura riprendere l'Inter? Certamente sì, Leonardo, certamente può, poi che ci riesca o che davvero vada a finire così, questo non lo possiamo dire, ma insomma io per il momento starei ai numeri e poi farei una considerazione, perché se esaminiamo tutti gli aspetti allora diventa un po' lunga. I numeri li ho già detti prima, cioè lo scorso anno l'Inter aveva 7 punti di vantaggio a questo punto della stagione, alla penultima d'andata, 7 punti di vantaggio sulla seconda e 10 sulla terza. Il campionato sembrava assolutamente chiuso. Probabilmente lei ricorderà come finì quel campionato, cioè come è finito. L'altra considerazione è questa: mi sembra che ci sia ormai una costante negli ultimi tempi per quanto riguarda Inter e Juventus. I numeri dicono che siamo lì sia come gol fatti che come subiti. L'Inter ne ha segnati 32 e 31 li ha fatti la Juventus, l'Inter ne ha subiti 12 e 13 li ha subiti la Juve, quindi i numeri sono quelli. A me sembra che una differenza non da poco sia questa: la Juventus fa molta meno fatica a trovare il gol di quanto non ne faccia l'Inter. La Juventus può permettersi partite molto mediocri come quella di ieri, e altre se non proprio così mediocri ma comunque non certamente non esaltanti, le ha giocate già nel girone d'andata, risolte, timbrate da o Amauri o Del Piero, che hanno una percentuale di incidenza, il risultato che è molto alta. Manca ancora Trezeguet, e volendo Iaquinta è un altro che la porta comunque, la vede, la sente. A me sembra che l'Inter abbia questo problema, cioè che l'Inter faccia molto ma molta più fatica ad arrivare in gol, causa anche schemi e scelte comunque di gioco a parer mio molto discutibili, salvo poi accatastare attaccanti nell'ultima mezz'ora, soprattutto se le cose si mettono male. Mi sembra che ci sia più logica, anche se non la stessa qualità complessiva, c'è più logica nelle scelte della Juventus che non in quelle dell'Inter. Moreno ha chiamato la provincia di Milano, buongiorno. Buongiorno Garanzini, complimenti. Dica. Ovviamente per la trasmissione. Io volevo parlare un attimo delle scelte di Ranieri ieri, sì, al secondo tempo, che praticamente ha sostituito Sissoko, che ok, era rifilato e va bene. Poi ha tolto Marchisio e Marchionni e ha messo De Ceglie a destra. Quando c'era Nedved che in campo camminava. Cioè, mettere De Ceglie a destra, che adesso poverino lo usa solo per camminare, secondo me è stata una scelta sbagliatissima. Infatti da quel momento in poi il Siena ha praticamente preso in mano il centrocampo e ci ha praticamente assediato fino al 90esimo circa. Lei cosa pensava di queste scelte? Secondo me sono state abbastanza azzardate ieri. Per Malezzano che si è giocato male tutta la partita, quello dubbiamente. Sì, si è giocato male, insomma, mi sembra che non fosse una gran giornata per la Juventus, che sia di quelle giornate da segnarsi con la sinistra per quella punizione di Del Piero. Poi può darsi che ci abbia messo un po' anche del suo, ma insomma io credo che Ranieri, credo che non sia facile in ogni caso continuare a fare a meno di un numero così alto di titolari e quindi dover continuare per l'appunto a rimediare, a trovare soluzioni alternative. Poi forse è più facile che altrove, perché molti sono giovani e quindi accettano e quindi entrano con un certo col propellente dell'entusiasmo in più ed escono facendo meno grane, no? Quando è ora o quando sarà ora. Però non è nemmeno facile continuare a trovare rimedi. Ripeto, lo scorso anno la Juventus era partita qualitativamente altrettanto male all'inizio dell'anno, poi era stata punita anche da due pareggi consecutivi, cioè da due risultati negativi consecutivi. Quest'anno ha trovato i punti e mi sembra un segnale interessante. Lorenzo da Firenze, buongiorno. Sì, buongiorno Gigi, buon anno soprattutto. Io chiamavo perché ho sentito l'ennesima prima telefonata, allora non la telefonata, però comunque mi ha un po' irritato. Io sono un tifoso della Fiorentina, ho sentito prima il tifoso della Fiorentina che congiurava contro gli arbitri. Io ieri dalle ore 17:30 finita la partita ne ho sentiti mille di tifosi della Fiorentina che hanno congiurato contro gli arbitri. No? Però la dico io, secondo me, ora non so, io volevo sentire proprio il suo parere. Io ho visto una Fiorentina ieri che anche diciamo la squadra stessa era consapevole del fatto che avrebbe potuto vincere tranquillamente con questo Lecce. Presi quei due schiaffi, diciamo, ha ritirato fuori il blasone e ha cominciato a infamare l'arbitro Bede Osvaldo. Diciamo, si è comportata la squadra stessa come si comportano i tifosi. Ora, secondo lei, non è che alla Fiorentina manca un po' di provincialismo? Ma non so. Troppo blasone e poco provincialismo. Ma non saprei se è questione blasone, provincialismo, sangue blu o sangue d'altro colore. Ieri certamente mancava la condizione e forse la convinzione. Insomma, c'è poco da fare. Quando si sta tre settimane senza giocare, al rientro sorprese ce n'è sempre, nel bene e nel male. E la peggiore di ieri è toccata certamente alla Fiorentina. Poi insomma, il tifoso che s'appella alle congiure o che denuncia le congiure è evidentemente molto fuori strada. Il tifoso però che nel senso che la Fiorentina ieri ha regalato due gol, ha regalato sì, cioè si è messa nelle condizioni, sbagliando un meccanismo difensivo, di subire due gol in fotocopia. Quelle sono le situazioni tipiche a rischio, nel senso che si sa bene che l'assistente per una frazione di secondo può valutare male. Ora, io dico, se già ne hai preso uno di gol a quella maniera, beh, insomma, e sei riuscito a raddrizzare la partita perché hai già pareggiato, beccare secondo è un peccato mortale e i peccati mortali si pagano. Molto, ma molto prima di congiure. Poi È ovvio che subire due gol in casa, l'ho già detto all'inizio, di cui uno è abbastanza chiaramente in fuorigioco e l'altro è passibile di sospetti di fuorigioco, credo che possa comunque credo che autorizzi i tifosi a non essere granché di buon umore, questo sì, ma tra il malumore e le congiure c'è sempre ancora una discreta differenza. Da Milano, Sergio, buongiorno. Sì, buongiorno Garanzini. Io sono un tifoso milanista da 60 anni oramai e le devo dire che onestamente negli ultimi 6-7 mesi non riesco più a vedere una partita del Milan, o mi addormento davanti alla televisione o cambio canale, perché proprio non sopporto più il gioco del Milan fatto di tocchi, tocchetti, passaggi indietro, non c'è più una così, la voglia di attaccare, di cercare di fare il gol, o se non altro c'è la voglia di stare bene coperti e poi se viene bene, no? E l'impressione che io ho è questa, molto probabilmente, secondo la mia idea, è proprio la famiglia Berlusconi che si è un po' disinnamorata della squadra, non è più interessata ai successi di questa squadra, vedi gli ultimi acquisti fatti così e non si capisce bene perché, il Beckham della situazione, il Milan a 5 stelle, il Milan a 3 stelle, il Milan a 22 stelle, ma noi non siamo un albergo, siamo una squadra di calcio, insomma, ecco, per cui non so quale sia la sua impressione, però è la sua, Sergio, grosso modo è proprio identica alla sua, nel senso che non ha senso, secondo me non hanno senso queste operazioni, poi non hanno un senso se non commerciale, se non di marketing, no? Che è quello che oggi comanda, e a parer mio non hanno senso, a parer mio e a parer suo, se non ho capito male, non hanno senso proprio perché accatastare tutte queste stelle e poi costringerle fatalmente a fare i gregari, alcuni di loro, no? La maggior parte di loro, a parer mio non ha proprio senso. Cioè, io dico marketing perché ieri sera Beckham ha giocato una partita decorosa, non giocava da tanto tempo, era fuori dal calcio che conta, a maggior ragione da tanto tempo, e quindi, per carità, la sua parte l'ha fatta. Ma la sua parte in che senso? Mi domando, nel senso che, cioè, qual è la sua parte? La parte di un presunto fuoriclasse come Beckham qual è? È quella di mettersi a fare il mediano incontrista, stando allineato e coperto, non abbandonando mai la posizione, scaricando la palla sempre sul più vicino e badando a coprire e a non distrarsi? Beh, io credo che un buon primavera diciottenne credo che possa garantire la stessa qualità, soprattutto la stessa qualità di Beckham ieri sera, dare una quantità tre volte superiore e magari risultare leggermente meno oneroso, ma probabilmente è qua che sbaglio e che sbagliamo lei e io, perché un conto sono gli oneri e un conto sono invece i quattrini che entrano da marketing, per l'appunto, e da allocchi, mi verrebbe da dire, ma stiamo a vedere, perché può darsi che poi vada diversamente. Non perdiamo le buone abitudini e con l'aiuto di Nicola Filippone scopriamo che cosa è accaduto nella storia dello sport il giorno 12 gennaio, non proprio un giorno qualunque. Sembra ieri. 12 gennaio 1994. Allo stadio Tardini di Parma si disputa la finale di andata della Supercoppa europea. Si incrociano il Parma di Nevio Scala, detentore della Coppa delle Coppe, e il Milan di Fabio Capello, subentrato dopo la squalifica del Marsiglia, vincitore della Coppa dei Campioni. I rossoneri si impongono per 1-0 grazie a un colpo di testa di Papin. Ma al ritorno, tre settimane dopo a San Siro, gli emiliani ribalteranno il risultato con le reti di Sensini e Crip. Nella storia della Supercoppa europea solo altre due volte si sono sfidate squadre della stessa nazione. Nel 1990 c'era stato un altro derby italiano tra Milan e Sampdoria, mentre nel 2006 si sono affrontati Barcellona e Siviglia. Non c'è il nome di Balotelli, ultima agenzia uscita tra i convocati per domani, Inter Genoa in Coppa Italia. Non solo, ma Mourinho ha confermato che no, ha confermato, ha annunciato, direi, e correggerei l'ansia in questo caso, ha annunciato che Balotelli non giocherà fino all'ultimo giorno di mercato. Niente è cambiato, ha spiegato Mourinho, né il modo di lavorare di Balotelli né il suo atteggiamento. Semmai suo fratello ha reso più chiaro che Mario vuole andare in prestito, aspetterò fino a quando chiuderà il mercato e allora capirà che deve rimanere e forse cambierà atteggiamento e rientrerà in squadra. Tocca a Giuseppe da Milano, buongiorno. Sì, buongiorno Garanzini. Dica. E buon anno. Grazie. Volevo parlare della qualità dei difensori del campionato italiano di oggi, perché ieri c'è stata una chicca incredibile sul primo gol della Roma tra Jan Kulowski e Vucinic, dove all'interno dell'area, con Vucinic spalle alla porta, Jan Kulowski è riuscito ad abboccare una semplice finta a destra, girandosi a sinistra, e Vucinic che si trova di solo davanti al portiere ovviamente fa gol. Cioè, non ci si diverte più a vedere difensori così in un campionato italiano. Ormai, cioè, sembra che il difensore lo faccia il primo che passa, non sanno quale ruolo fargli fare, gli fanno fare il difensore. È una cosa veramente incredibile. Io credo che un errore del genere di Jan Kulowski equivalga a un bomber che da solo, davanti alla porta vuota, tiri fuori. Sì, insomma, sì. Questo bomber non gioca più. No, non gioca più, no, nel senso che acqua fresca si è mangiato, io credo, il gol più clamoroso dell'intero girone d'andata fino a questo punto, calcolando che il rapporto tra la qualità di acqua fresca e la facilità del pallone che aveva soltanto da spingere in porta. Ma non è che acqua fresca non gioca più, acqua fresca rigiocherà ancora. Jan Kulowski si dovrebbe fare in maniera di non fargli fare diagonali o chiusure in mezzo all'area e lasciarlo largo, magari a randellare, che mi sembra diventata in questo girone d'andata un po' la sua specialità. Tocca a Giacomo da Prato, buongiorno. Buongiorno Gigi, la mia domanda è sulla Juventus. Sì. È semplicemente questo, volevo sapere se questa squadra, visto che in campionato alterna partite buone con partite dove vince a episodi, se alla lunga potrebbe bastare anche per la Coppa dei Campioni un gioco del genere, dal momento che rientrano anche Trezeguet, rientra Buffon, potrebbe servire anche Giovinco qualche volta, e nulla, qui non si riesce più a vincere una Coppa dei Campioni, mi domandavo cosa manca a questa squadra. Grazie, l'ascolto della radio. Secondo me manca molto, cioè per una Coppa dei Campioni manca molto. Io credo che se c'è qualcosa che non mi convince della Juventus, cioè mi convince quasi tutto, no? entro certi limiti. Quello che non mi convinco sono le loro parole di questa fase. Ci ho sentito nefandezze di Cobolli Gigli la scorsa settimana dopo la sentenza Gea. Sento continuamente Ranieri, gli stessi giocatori, soprattutto la società, parlare di Coppa, parlare di obiettivo Coppa Campioni, eccetera. Io credo che insomma, sia un modo di creare attese eccessive. Mi pare che gli ultimi anni abbia dimostrato che con la sola eccezione del Milan, che però ha sempre privilegiato l'Europa al campionato, non ci sia stata assolutamente trippa per i gatti, ma direi di lontano, no? Rispetto alle squadre italiane. Quest'anno non mi paiono particolarmente più competitive delle altre stagioni e oltretutto hanno tre ostacoli molto alti sin dai quarti di finale, dovendo poi eventualmente ancora fare i conti con Barcellona, con Liverpool o Real Madrid, eccetera. Quindi trovo un po', non so come dire, trovo un po' stonate queste cose, anche perché, ripeto, creano grandi, grandi aspettative e secondo me falsano un po' la prospettiva di questi confronti. Poi naturalmente può essere vero o può non andare così, ma diciamo che se Inter, Juventus e Roma dovessero superare questo turno, lo farebbero a sorpresa. Ecco, almeno questo credo che vada dato, no? Credo che vada detto all'inizio, cioè che le favorite comunque sono le altre tre. Quando la Juventus non riuscirà a correre così e a fare questo pressing, come finirà? Secondo me verrà ridimensionata, scrive Francesco Barbieri da Verona, e indubbiamente individua un problema in prospettiva che la Juventus avrà, cioè quello di aver cominciato la stagione prima e quella di essere oltre che una squadra che spende molto sul campo, di essere una che ha anche cominciato a spendere da più tempo. Molto dipenderà da come si sono mossi in questa sosta, cioè da come ha lavorato adesso, però gli effetti si vedranno più avanti, e certamente per questo genere di cose sono sempre i primi caldi, questa è la storia del calcio che lo insegna, sono sempre i primi caldi poi a dare le risposte di questo genere. Da Milano, Vincenzo, buongiorno. Buongiorno signor Granzini. Dica. Una considerazione, io ieri sera ho visto la partita Roma-Milan, da spettatore interessato, ho visto che sono interista. Però mi sono fatto, a mio modestissimo parere, una convinzione che due squadre come Roma e Milan dovrebbero soprattutto stare attente, avendo visto la partita appunto, il Milan a conservare il terzo posto per la Champions League, visto come stanno andando le quarte dietro tipo Napoli e Genoa. E la Roma deve stare molto attenta perché secondo me con le due difese che ho visto ieri sera all'Opera, ma io penso che a livello di grandi squadre sono le difese peggiori che ci sono in circolazione, dopo Inter, Juve, Genoa, Napoli, cioè hanno due difese veramente scarse, se si può dire. E l'altra ipotesi che volevo dire è che se, a proposito della telefonata del tifoso della Fiorentina, io sarei veramente arrabbiato nella giornata di ieri se fossi un tifoso del Catania, visto quello che è successo a Napoli. La ringrazio, signor Garanzini, vorrei il suo parere. Grazie a lei, Vincenzo. No, io sarei più arrabbiato nei panni del tifoso della Fiorentina, perché poi quella del Catania, per quanto difficile da accettare, più o meno la si è chiarita, nel senso che è stato un difetto. Cioè, racconta bene, io la farei raccontare bene a Fabio Tavelli ieri, perché è stato Sky Sport 24 ieri sera poi a una certa ora a documentare che cosa esattamente era accaduto ai due orologi di quell'arbitro, con un countdown fatto dal quarto uomo un po' fasullo, tarato su un orologio anziché su un altro, una roba di una complicazione assoluta. Preferisco farla raccontare a lui domani, se non altro perché è curiosa, non perché è un giallo. Però io credo che credo che sia uno di quei casi talmente limite per cui anche a Catania se la sono presa giustamente, secondo me, fino a un certo punto. Martino, chiamato da Imperia, buongiorno. Buongiorno, sono un tifoso della Sampdoria. Sì. Io volevo chiedere questo: io non riesco a capire come sia possibile che non ci sia uno straccio d'attaccante che decida di venire a giocare nella Sampdoria. Allora, alla luce di questo, io ho visto la partita di ieri, Cassano ha giocato normale, non più o meno che una partita normale, ha dato almeno 4-5 palle gol che purtroppo nella Samp finiscono nei piedi di Franceschini, Padalino, Stankevicius, ma un attaccante appena normale su 5, 2 le fa diventare. E invece lì non accade, e mi sembra di capire che questo è il problema. Mauro da Torino domanda cosa penso della situazione del Torino, del grottesco e fantomatico Mister X che sarebbe in arrivo. Ma io penso che per quel che vedo ogni tanto del Torino, tipo per l'appunto sabato pomeriggio, penso che anche questo fantomatico Mister X non potrebbe far altro che accompagnarlo più o meno mestamente in Serie B, per come mi sembra messo, una squadra che non ha anima e non ha difesa. E quando non hai anima e non hai difesa è l'anno in cui retrocedi. E visto che Torino sono due anni che si salva, ma veramente un po' per il rotto della cuffia, un po' per delle botte di fortuna non indifferenti nel finale di stagione, o trova il modo di cambiare davvero. Non so se al mercato, ma quanto guardandosi allo specchio, non lo so, quanto recuperando un minimo di orgoglio collettivo, ma se no non vedo veramente come possa non essere una delle tre. Massimo, chiudiamo con Massimo della provincia di Milano, buongiorno. Sì, buongiorno Garanzini. Dica. Riguardo la partita dell'Inter, io ho avuto l'impressione al finale di rivedere certe partite a cui partecipavo io, di tornei aziendali, quando si era sotto di un gol buttavano dentro 5-6 attaccanti. Certo. Sono veramente, non riesco a spiegarlo, un allenatore di quel calibro. Lei riesce magari a spiegarlo? Lo so che l'ha già spiegato prima, che neanche lei riesce a spiegarlo, ma per me veramente è un mistero. Io credo che, come già si era dimostrato in un altro caso, nella stessa squadra, cioè un'altra squadra della stessa città, io credo che gli allenatori dei tornei aziendali siano degli special one, o viceversa, che gli special one siano allenatori anche da tornei aziendali. 14, 57 e 52, Filippo Aureggi. cui vanno oggi gli auguri di buon compleanno. Filippo Aureggi fa segno dalla regia che il tempo è scaduto, quindi grazie a lui, grazie a Flavio Suardi, grazie a tutti voi che siete intervenuti. Appuntamento a domani.